Eccoci qua, buonasera Gabriele, buonasera. Ma non ci stava male quel sottofondo che c'era prima di questo? Ti piaceva, eh? Ma ci aveva un che di... E poi ti faccio capire che cos'è, è una cosa nuova, una cosa nuova. So cose nuove, va bene. So cose nuove. Allora, Gabriele, come stai? Prima di tutto e benvenuto, bene, ben grazie. Arrivato. Ah, bene, grazie. Faster non te lo dice così, eh? No, io non leggo, lui non dice, siamo una vecchia coppia sposata, questa sì, è la verità. È vero, quando vi sento battibeccare o fare programmi e progetti enormi per il futuro mi viene da sorridere sotto i baffi. Allora, iniziamo. Dai, che c'è di nuovo? Allora, te lo voglio dire, non comincerò con questo film, ma te lo voglio dire, questa settimana c'è un film di menare. Te lo voglio dire, si mena, si spara, no, poi ci arriveremo, però c'è. Vabbè. Ed è uno solo, però, e devo dire, è strano, perché questa settimana escono 18 film. 18 non, 18. È, non è una cifra da 16 per dire tanto. Urca. 18 di numero. Cioè una roba che non ha nessun senso. Io non so chi vedrà questi film. Noi non parleremo di tutti e 18, anche perché una buona quota di questi 18 mi sono rifiutato di vederli. E penso di aver fatto bene. Parleremo solo, non posso neanche dire dei migliori perché ho visto certa roba, però dei più interessanti, di quelli che probabilmente, su quali probabilmente vi state facendo delle domande. Ecco, mettiamola così. Dire proprio di sì, mi stai incuriosendo. Ah, guarda. Allora, cominciamo con i buoni sentimenti. I buoni sentimenti? Sì, con un film di amore e malattie terminali, che è un genere, guarda che è un genere potentissimo. Sì. Tipo Love Story è quello sì, aureo, ma poi ne sono stati fatti tantissimi. E siccome recentemente c'è stato Colpa delle Stelle, che è stato un grandissimo successo di amore e malattie terminali, gente che sta per morire ma si ama veramente tanto, è un po' ritornato in voga, ne sono stati fatti parecchi. E questa settimana esce A un metro da te, che aggiunge, perché poi lì la gara... A un metro da te? Si chiama A un metro da te. Un metro da te. La gara è un po' a... capire, avvicinarsi a quel meccanismo per cui l'amore è più romantico e più forte tanto più ci sono degli impedimenti. Allora, chiaramente la morte certo, è un bel impedimento, diciamo che è buono come impedimento. La morte funzionale, funzionale. Sì. Però qui c'è anche un'idea che a me mi ha fatto un po' sorridere quando l'ho letta nella trama. Cioè, i due sono entrambi malati terminali e di una malattia uguale, la fibrosi cistica, mamma che mia, fa sì che non si possono toccare. Quindi siamo nel massimo del platonico, capito? Dell'amore puro, proprio totale. Allora, mamma mia. Loro due sono nell'ospedale insieme che fanno il trattamento, si conoscono, ma lo sanno che comunque non possono, cioè è inutile che stanno lì a conoscersi perché tanto non si possono amare. Però l'amore è più forte, questa è la verità, l'amore è più forte, e faranno delle piccole fughe, ci saranno chiaramente ci sarà anche il momento, oddio, oddio, stiamo morendo, no, perché c'è sempre in questi film il momento in cui crolla tutto, in cui sembra, cioè si arriva all'idillio e invece poi arriva la tragedia a ricordare la malattia terminale. Ovviamente è un film di adolescenti, e devo dire, la cosa che mi piace di questo genere è che per raccontare i sentimenti di un'età in cui tipo tutto è questione di vita o di morte, si fa una storia in cui tutto è questione di vita o di morte per davvero. Cioè effettivamente stare troppo vicini potrebbe ucciderli, e per cui loro appunto devono stare almeno ad un metro di distanza, almeno. Oh mamma mia. Esatto. Quindi c'è un sacco di lacrime di gioia e lacrime di disperazione. Sicuramente è molto commovente. Cioè, sì, certo, tutto lì la cosa. Un'emotività profonda. È tutto lì, molto amore, morte, molto adolescenziale, cosa... molto ovvio, sentimenti esagerati, molto spinto. Desiderio mancato, cioè terribile. Io e te soli nel mondo. Struggente. Esatto, lo struggimento. Devo dire che non è venuto male questo. Non è venuto male perché è molto brava lei. Lui è un po' fessacchione, l'attore. Adesso sarebbe bello non dire sempre lui e lei, solo che sono due attori quasi esordienti, quindi... lui è Cole Sprouse, che io non avevo mai sentito Cole e mai visto. Cole Sprouse. Esatto, non l'avevo mai visto e sentito. Mentre invece lei l'avevo già vista, lei è Hayley Lou Richardson, faceva un ruolo di amica, se non sbaglio, in 17 anni e Come uscirne vivi, che è carinissimo, a me mi era piaciuto un sacco, e fa una delle vittime in Split. Ed è molto brava, devo dire lei, molto brava, perché poi qui... la questione è molto, cioè il sentimento è molto negli occhi, no, di come guardi l'altro. Lui ha un po' la faccia da pesce lesso, mentre invece lei, quando lo guarda innamorata, mi convince molto. Quindi senti, questo... nazionalità del film? Americano, ovviamente. Americano. Americanissimo. Ok, quindi è bello potenziato tutto. Beh, quanto. Sì, una produzione importante alle spalle. Ah, va bene. Budget di questo film? No, una robetta. No, robetta. Questi proprio, okay, li possono fare con gli spicci. Va bene, va bene. Questi vanno molto bene. Votazione, che lo consigli, quindi? Se è il genere vostro, sì. Secondo me nel suo genere è molto riuscito. Ok, quindi un film struggente per chi ama struggimenti adolescenziali. E film struggenti adolescenziali. Allora, un metro da te. Esatto. Ok. Continuando sui grandi struggimenti, ma salendo di età... Struggimenti per persone un pochino più adulte. La settimana della felicità. Struggimenti. Vabbè, proprio vediamo perché è iniziata la primavera. Vediamo se ce ne sono altri. Ma forse un altro ancora ce n'è poi. Altro di struggimenti. Allora, si chiama La Conseguenza e ci recita la regina del cinema di struggimento moderno, che è Keira Knightley. Una donna che ha una percentuale di film in costume nella sua filmografia che a me mi impressiona. Lei, io credo di averla vista una volta in un film in abiti moderni. Lei fa solo film ambientati nel passato. È molto brava. E questo film è ambientato nel passato, sì, quindi è ambientato. Deduco dalla tua affermazione. Che astuzia. Questo film è ambientato nell'immediatissimo dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale in Germania, ma loro sono inglesi. Attenzione. Quindi loro vanno lì a contribuire alla ricostruzione. Questa è una cosa che adesso si fa molto. Cioè il cinema in generale sulla Seconda Guerra Mondiale si è sempre fatto, sempre si è anche esaurito, diciamo, sì, insomma. Adesso c'è molto il cinema del dopo. Cioè non i nazisti quando erano al potere, ma i nazisti quando si nascondono. Ah, ok. Film ambientati negli anni 50, 60, in cui si dà la caccia, c'è ancora qualcuno nascosto che trama nell'ombra. Questo è proprio immediato, subito dopo. C'è una cosa che devo dire mi ha molto divertito come espediente. Io non sapevo, nell'immediato dopoguerra i nazisti che ancora ci credevano, insomma, che ancora pensavano di poter ribaltare le cose, erano, se non sbaglio, un gruppo chiamato 88, credo, perché non mi ricordo neanche più perché, vabbè, insomma, comunque era un gruppo chiamato 88. C'era un motivo, forse perché veniva, era una traslitterazione di SS, vabbè, insomma, e si tatuavano i numeri sul braccio. E quindi in questo film per far sono... vedere che invece erano reduci da qualche... No, per riconoscersi tra di loro. In questo film sono quindi i nazisti che hanno i numeri tatuati sul braccio e non gli ebrei. È una cosa che è in effetti curiosissima. Il protagonista è un militare inglese che è andato lì a lavorare alla ricostruzione. Quindi gli danno un po' la caccia, sistemano, fanno. Lei e la moglie, che ovviamente lo segue, stanno in... Questa è una cosa che effettivamente capitava nel dopoguerra, forse anche italiano se non sbaglio. Per i primi tempi si alloggiavano le persone insieme, si aggregavano le famiglie perché le palazze erano distrutte, certo, insomma, c'era una serie di problemi, certo. Quindi loro vivono con questi tedeschi non nazisti. Però lui è un figo pazzesco, lui il tedesco, cioè Alexander Skarsgård è un figo della Madonna. Tu già capisci quando entrano in questa casa è chiaramente la tragedia. Allora ho capito tutto. Beh, ho capito tutto. Loro tra l'altro hanno alle spalle il figlio morto. C'è pure un figlio morto alle spalle. Quindi la tragedia, Love Will Tear Us Apart, la tragedia li divide. E c'è Alexander Skarsgård, grossissimo, tutto mega figo. Pure lui... tatuato, capito? C'ha i numeri tatuati. No, lui no, lui no, lui no. Ah, lui non ce l'aveva tatuato. Lui è un buono, con figlia e moglie morta. Perfetto. Vabbè, perfetto. Della serie ce l'ho, mi manca. Esatto. Va bene. Allora, devo dire che a fronte di tutte queste caratteristiche che lo rendono estremamente prevedibile, e effettivamente poi le cose andranno bene o male, no, ci sarà una storia d'amore tra Keira Knightley e Alexander Skarsgård. Poi però a un certo punto succedono tutta una serie di cose imprevedibili. Cioè, a un certo punto io dico, ho capito come andava a finire, invece succedono una serie di cose. Per cui non è fino in fondo quello che vi aspettate. Anche questo, devo dire, nel suo genere non mi è dispiaciuto. Non stiamo parlando di un capolavoro, però ammetto che è ben fatto. Anche perché solitamente poi in questo film, devo dire, questo farò un racconto di parte, in questo cinema gli uomini sono abbastanza degli idioti. E invece io ho apprezzato un sacco che in questo film le figure maschili sono tutto sommato... delle persone decenti, insomma, addirittura strano. anche quello che anche il marito di lei è una persona estremamente decente, insomma non è un cretino, e questo l'ho apprezzato. Diciamo che pure questo bene o male lo consiglio se siete amanti di struggimenti per adulti. Un altro struggimento, cioè piangi anche qui come il primo? No, no, un po' meno. No, il primo proprio qui... muori disidratato. Sì, esatto. Qui può scendere una lagrimuccia, ma una proprio lagrimuccia. Sì, vabbè. Commozione più adulta. Esatto, una cosa un pochino più. Beh, e due sono drammatici. Terzo struggimento. Drammatico. Qui pure forse una lacrima, a seconda di quali sono state le vostre esperienze nella vita, forse può scattarvi una lacrima anche qui. E però questo è italiano. Devo dire, è un film molto interessante, a prescindere dal fatto che è un po' di struggimento. Ci dice un ascoltatore che 88 stava per HH, ovvero giusto, Heil Hitler. Ecco cos'era. Lo dicono pure nel film, io non riuscivo a ricordarmelo. Grazie mille. Che Niola non è ben preparato oggi. Mi si affastellano tutti e 18 i film. Ricordi. Anzi, il titolo è col punto interrogativo, quindi Ricordi. È un film italiano. Devo dire, è un film veramente, veramente particolare. A me è piaciuto. Regia? Di Valerio Mieli. Ora, Valerio Mieli aveva esordito ben 10 anni fa con 10 inverni, che era un gran bel film. Ah, bello. Molto sì, bello. Lo ricordo. Poi è scomparso. Cioè, non si è più saputo niente. Sparuto. E adesso ritorna con Ricordi. Ha dei punti in comune, Ricordi, con 10 inverni. Perché anche questa è una storia che si svolge lungo il tempo. Anche questa è una storia di due persone che stanno insieme, poi no, poi sì, poi no. Insomma, c'è un po' di questo tipo di andamento. Però ha una caratteristica pazzesca che lo rende molto originale, specialmente per noi che facciamo i film tutti uguali. È raccontata solo tramite i ricordi. Quindi la storia è estremamente semplice ed ordinaria. Due persone si conoscono, si mettono insieme e poi ci sono una serie di problemi. Quindi il massimo della normalità. Anzi, è fatto proprio per essere una cosa in cui tutti possono dire: beh, queste cose sono capitate bene o male anche a me. Certo. Però questo fatto che è raccontato non solo con i ricordi, ma anche tutti mescolati. Prima l'ultimo, quel primo, proprio quello in mezzo. Cioè, è una struttura totalmente caotica, ma in realtà è ben raccontato. Quindi non hai l'impressione: non sto capendo niente. Ti si struttura un puzzle, anche esatto, se temporalmente che non è molto consecutivo. Interessante. Okay. Che è molto interessante. Bello. È una cosa molto avvincente. Non credo sia nemmeno facile strutturare per un niente. Film così. L'avevano fatto gli americani con 500 giorni insieme. Ed era molto anche quello, era riuscito abbastanza bene. Questo qui non solo ha un terzo elemento che lo rende molto interessante, è che veramente cerca di ricostruire come funzionano i ricordi. Per cui spesso le cose sono esagerate, sbagliate. Spesso vediamo lo stesso evento ricordato da lui, ricordato da lei, totalmente diverso. Abbastanza figo, bello. Anche se non sai mai qual è quello di lui e qual è quello di lei, però insomma, diciamo che ti fai un'idea. Se i vestiti sono molto precisi, più o meno pensi che, beh, penso che sia lei. Se invece è tutto un po' così. Ah, così proprio, cioè mette... Cioè sì, alle volte è pieno di gente, poi lo rivedi quel ricordo, non c'è nessuno. Quindi sono non soli. Si sa di chi è il ricordo. No, sono non messi sa. Così. Cioè, sono una serie di ricordi. Capito. Devo dire, guarda, è molto interessante. È un film che chiaramente ti chiede di stare molto attento, questo è evidente, ma è anche pieno di stimoli, perché lui gioca molto con il montaggio, gioca molto con la fotografia, gioca molto, ho capito a un certo punto, con i suoi ricordi, cioè del regista, perché ci sono un sacco di film in mezzo. C'è un momento che sembra un po' Tree of Life di Terence Malick, c'è un momento che sembra un po' Marcordi Fellini, ci sono tante cose insieme. Devo dire, è estremamente estremamente interessante. È recitato, attori italiani, sì, è recitato da Linda Caridi, che è un'attrice poco nota, che ha fatto poco e che non è male. A sorpresa, adesso vi dirò chi è l'altro, a sorpresa dei due è quella che regge, perché l'altro è un attore bravissimo che però qui non lo è, veramente un mistero, è Luca Marinelli, che è bravissimo però qua non funziona, incredibile. Accidenti. Incredibile. Lei però che film ha fatto, perché io me la ricordo. Vediamo. Mi ricordo il suo nome. Vediamo un pochettino. Comunque, cioè, lo consigli questo film? Questo mi sembra è molto più interessante. Allora, sarò sincero fino alla fine. È un film talmente particolare che è tipico che poi c'è chi lo odia, perché no, è talmente netto, deciso, fa delle scelte così senza compromessi, che se non sei d'accordo ti infastidisci. Questo lo posso capire. Però dall'altro lato, se ti piace molto. Come a me è piaciuto molto. Bene, no. Mi incuriosisce più questo che i primi due, devo dire la verità. Perché, beh, sicuramente è più particolare, questo è sicuro. Sì, anche per la costruzione del film che mi mi stimola. No, lei ha fatto cose molto piccole, ha fatto un TV movie che si chiama Felicia Impastato, ha fatto Un nome di donna, che è un film molto piccolo, insomma è una che è difficile che abbiate già visto. Beh, ecco. Ha reso il meglio in questo, diciamo che questo può essere considerato il suo vero film di debutto. Beh, insomma, diciamo di sì. Come attrice di buon livello. Sicuramente. Bene, bene, bene. Sto scegliendo su come proseguire, sto scegliendo cosa ti posso... Le botte all'ultimo, per favore, eh? Guarda, no, o a metà forse. Vabbè, reggo meglio botte, a metà. Le botte a metà. Adesso invece hai avuto le botte a metà, quindi adesso le botte a metà, no. Memena, niola. Sì, esatto, mie botte. Scappo a casa. Allora, Scappo a casa è il classico film che secondo me non andrà bene, adesso vi dico cos'è, però secondo me non andrà bene al botteghino. Non credo che andrà bene al botteghino, però sono quei film che poi quando va su Sky lo vuoi vedere. Voglio vedere cos'è. Cioè senza pagare, capito? Senza pagare voglio vedere cos'è. Se devo pagare... È il primo film solista di Aldo Baglio. Aldo Baglio è Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo. Ah. Che ha fatto un film da solo. E si chiama Scappo a casa. Allora, qual è la trama? Allora, ve lo dico, adesso vi racconto. Al film a me non mi è piaciuto, non riesco a resistere. Il film a me non mi è piaciuto. Ok, partiamo da questo presupposto. Però poi le trame, quando le racconti, sono sempre più divertenti del film. Allora, lui è un razzista che vive a Milano, gira con i macchinoni, anche se è un meccanico, perché è molto aspirational, vorrebbe far credere di essere più di quello che è, si mette le parrucche perché si vergogna che è pelato. A un certo punto va in Ungheria a fare turismo sessuale. È molto quel tipo di persona, no? Così qua là che disprezza, fa cosa, eh? Succede che gli rubano tutto, rimane senza fantastico. Niente e finirà in un giro allucinante per tornare in Italia, cioè finirà assieme a degli africani che lui disprezza a fare praticamente il migrante attraverso l'Europa, dovrà passare attraverso la Croazia, poi la Slovenia, cercando disperatamente in una o nell'altra di ritornare in Italia. Anche loro, che sono africani, quelli che stanno con lui, vogliono tornare in Italia perché hanno un interesse loro, cioè di mezzo una cassaforte, dei soldi, c'è tutto un intrighetto di mezzo. E la cosa che ammetto è divertente è che a lui lo scambiano talmente tanto per tunisino, lui che è siciliano, no? Scuro, cioè, che a un certo punto lo dice lui, sono tunisino, dice continuamente di essere tunisino perché fa prima. Chiaramente, come avete già immaginato, in questo viaggio assieme agli africani lui capirà che non c'era motivo di essere razzista, eccetera, eccetera. Una redenzione da razzista. Esatto. Il film non è molto divertente, a fronte di queste due o tre cose che fanno, sono carine, non è molto divertente. Come spesso capita, questi film è troppo lungo. Ah sì? Sì, io l'ho sofferto un po', a un certo punto non ce la facevo più. No, ma no. Perché poi lui ha molto una... Dei tre, di Aldo, Giovanni e Giacomo, lui era quello della comicità fisica, degli occhi strabuzzati, i movimenti, le cose. Qua sente un po' la mancanza degli altri due, che bilanciavano, creavano un tutto abbastanza bilanciato. Invece... lui non riesce a fare la comicità verbale, quella di dialogo non gli riesce bene. Insomma, È un po' stentato. Stenta, il ragazzo mi stenta. Ho capito. Vabbè. Insomma, consiglio e voto 5. Sì, su 10. Sì. Sì, vabbè. Credo che siamo arrivati a metà, perché sto facendo il conto di quelli che rimangono. Ne rimane 1, 2, 3. Alzo il volume. 4 e ne rimangono altri 4, anzi 5 a parte quello da menare. Dai, vabbè, su, togliamo sto dente, forza. Peppermint. Allora, Peppermint, allora, è un film, se avete visto il trailer l'avete capito subito, perché vogliono farvelo capire subito. È Taken al maschile. Cos'è Taken, se non lo sapeste? Taken è Tekken. Anni 90, vedo, grandissimo videoludico anni 90. Taken è una serie di film degli ultimi anni, di cui Prince Faster è un grande ammiratore, te lo dico. Faster non c'è. Volevo ricordare la buonanima. Volevo ricordarlo. Oddio mio. Lo ricordo nelle mie parole. Allora, gli piacevano tanto. Allora, un grande amante della serie di Taken. È una serie che riprende il grande classico del giustiziere della notte. Cioè, mi avete rapito e ho ucciso la famiglia e io farò una strage. Lo riprende, ma lo gira al femminile. Questi sono sempre stati film maschili, no? Perché un po' la loro forza sta nel raccontare la parte animalesca dell'essere umano. Era così che nasceva il giustiziere della notte. Sì. Nasceva innanzitutto come una roba super giustizialista, repubblicana molto inquadrata, certo. Cioè i giovani drogati sono pericolosi e ci entrano in casa e ci violentano perché la polizia se ne sta lì con le mani in mano, ci facciamo giustizia da noi. Questa è la linea di fondo. Sì. Però la cosa interessante che raccontano, a parte questo, è quanto siamo vicini, cosa ci vuole per scattare, far diventare una persona molto normale un animale, una bestia, farlo diventare il giustiziere della notte. La serie di Taken era un po' particolare perché lui in realtà non era una persona normale, era un ex dei corpi speciali, non gli ammazzano la famiglia ma gliela rapiscono, quindi lo deve andare a prendere, insomma, no. Era con Liam tipo Neeson. Rambo. No, Rambo non ha familiari. Non cominciamo con questa sufficienza sbagliata poi. Cioè, è la cosa peggiore. A Niola gli piace troppo Stallone. No, Stallone è intoccabile. Intoccabile. Cioè, uno dei più grandi uomini di cinema del nostro tempo. Va bene. Io mi licenzio da questa. Rassegno le mie dimissioni da questa radio. Comunque. Peppermint lo gira al femminile, che è una cosa estremamente interessante, perché questo è sempre stata una serie di film che affrontavano il ruolo del maschio nella società, cioè andavano a prendere tutte queste figure maschili e le colpivano nel vivo, la protezione della famiglia, il senso del dovere, no? È una cosa, una prospettiva diciamo estremamente classica da gioco dei ruoli. Sì, mentre mi sembra invece che questa cosa stia andando parecchio di moda dell'eroina femminile, perché esatto, lo raccontavi anche della Marvel, no? Moltissimo, e quindi questa è la prima volta che questo genere di film si rivolge alla parte femminile. Quindi la trama qual è? La trama è che lei è una normalissima comune mamma, ha un marito, una figlia. Il marito fa delle cose pericolose con una gang di droga che a un certo punto li massacra al parco. Proprio questo è un po' abbastanza stereotipico, loro al parco felici che giocano e ridono e sventagliata di mitra. Lei però sopravvive. Ah, li uccidono proprio tutti tranne lei. Lei si fa all'ospedale, la riabilitazione, ma è sopravvissuta e li ha visti in faccia questi, quindi va a testimoniare, fanno il confronto all'americana, lei li individua, vanno al processo, ma al processo sono tutti corrotti perché li hanno corrotti i mafiosi, quindi non solo i criminali la fanno franca, ma lei viene internata. Questo è un passaggio che definirei con un termine tecnico poco delicato, cioè praticamente quello che accade nel processo è che i criminali sghignazzano palesemente, lei dà di matto quando scopre che sono degli innocenti e quindi la fanno internare. Scapperà, e la maniera anche questa molto poco delicata con cui ti giustificano il fatto che una persona normale diventa una bestia è perché lei scompare per 5 anni e va a fare arti marziali miste e diventa tossica. Ora siamo nel campo della più totale implausibilità, anche perché poi lei sa maneggiare anche delle armi, tu ti chiedi ma questo mica l'ha imparato facendo arti marziali miste? Però vabbè, questa cosa chiaramente è a poco senso stare a farsi tutte queste domande, evidentemente non ce le facciamo. No, evidentemente no. Allora, uno, qualità della violenza molto buona, complimenti. Molto buona. No, perché spesso questi film sono pavidi, fanno tutti i grossi, dicono adesso io piglio, vado, faccio, ammazzo, e poi non ti fanno vedere le morti, oppure che ne so, uno casca dal parapetto. Invece qui ci vuole il colpo in fronte, sì, cruento, sangue, cioè, se stiamo parlando di violenza simulata deve essere fatta bene, se no che biglietto ho comprato. Va bene, e devo dire che è fatta bene perché il film è girato da Pierre Morel, che è il regista del primo Taken, che in italiano si chiamava Io vi troverò. Quindi comunque è uno che l'azione la sa fare. Lei è brava a fare l'azione, perché lei è Jennifer Garner, che vi ricorderete aveva fatto sia il film Elektra in un'era in cui i film di supereroi non erano ancora così potenti, sia aveva fatto la serie Alias, dove faceva una spia d'azione. Quindi le sa fare queste cose, tutto bene. Ma c'è un problemone, per cui alla fine secondo me non gira questo film. Il problemone è che nel momento in cui tu fai un cambio così forte, cioè leviamo una figura maschile e mettiamo una figura femminile, devi necessariamente cambiare la trama, altrimenti quello che accade è che il protagonista non ha un conflitto. Il suo problema evidentemente è che deve vendicare la famiglia, e ok, e va bene, però per mandare avanti il film, per renderlo interessante, non basta solo questo è l'obiettivo finale, ci vogliono anche tutta una serie di conflitti personali. Se pensate a un grande film d'azione demenare con una protagonista femminile come Nikita, per dire, sì, lei ha dei problemi da donna, è quello che rende il film forte. Invece qua lei è come se avesse dei problemi da uomo, questa cosa non ha nessun senso, cioè totalmente denaturata come donna. Sì, esatto, non ha nessun senso. E quando invece non ha dei problemi da uomo, non ne ha, punto e basta. Allora diventa una specie di automa che va a uccidere persone. Questa cosa non mi fomento, non mi arrabbio, non sento il film, non sento la necessarietà dell'atto, no? Che poi il bello del cinema di Menare, a parte il Menare in sé, è l'idea che ci sia qualcosa dentro di te che ti fa fare il salto di qualità. No, che è la grande idea di Rocky. Io ho dei limiti col mio fisico, perché non sono il campione del mondo di pesi massimi, ma ho una volontà talmente di ferro che riuscirò a piegarlo. E questa è la figata. Mentre invece qua tutto questo non lo senti. È un po' un film incolore. Quindi alla fine sono stato un po' deluso da questo film di Menare. Senti, mi arriva una domanda qui su WhatsApp, sì, che diciamo ci porta altrove. Che cosa ne pensi del nuovo film di Tarantino? Questa è una domanda, un trabocchetto, perché sì, cioè, il film ancora deve uscire. Allora, e non ti dico chi l'ha fatta. Che è ancora peggio, questo peggiora la situazione. Esattamente. Allora, il nuovo film di Tarantino c'è al momento solo un teaser trailer, cioè manco il trailer, solo un teaser trailer. Con tutta probabilità, insomma, io ci scommetterei dei soldi, sta a Cannes. Perché la data di uscita è poco dopo Cannes, perché Tarantino è esploso a Cannes con Pulp Fiction, perché Cannes si calerebbe le mutande per averlo, e quindi io credo che sarà là. Quindi lo vedremo là. Detto questo, il trailer secondo me è molto brutto, però cioè non un brutto film, un brutto trailer. Secondo me il trailer racconta una commediola simpatica, io non penso proprio che lo sarà. Non solo, il trailer sembra fatto a un certo punto verso la fine per sembrare un trailer di un film di Wes Anderson. Cioè, proprio non lo so, non mi ha invogliato per niente questo trailer. Detto ciò, il film invece, in generale, trailer a parte, da quello che si sa, cioè è un film ambientato nella Hollywood degli anni 60, con un sacco di personaggi della Hollywood anni 60. C'è Sharon Tate, c'è Bruce Lee, c'è Charles Manson, che non faceva parte di Hollywood, ma insomma era attivo in quegli anni. È la storia di un attore, Leonardo DiCaprio, e della sua controfigura, Brad Pitt. Insomma, è una cosa molto interessante, anche perché, se ci avete mai fatto caso, non tutti sanno che tutti i film di Quentin Tarantino, dal primo all'ultimo, tutti, sì, in un qualche maniera, ad un certo punto, sì, parlano di recitare. Sempre, è una sua ossessione. In Le Iene, lui, Mr. Orange, se vi ricordate, sì, a parte vero, che recita un ruolo, sì, ma sì, poi fa il racconto di come si racconta una storia. Sì. In Pulp Fiction loro a un certo punto dicono, beh, entriamo nei personaggi, quando devono entrare nella stanza. In Kill Bill, Bill gli dice a lei, tu stai recitando un personaggio, tu non sei una mamma, non sei così. Ah. No? Gli dice questa cosa, ma ne potrebbero fare mille di esempi. In Django Unchained il dottor Schultz parla proprio di come si fa a recitare. Insomma, c'è sempre qualcuno che interpreta una parte. Pensate a Bastardi senza gloria, quando si fingono italiani, no? Sì, c'è sempre qualcuno che recita un ruolo, è una cosa che lui gli piace tanto, questa qui. E questo film promette di prenderla di petto, figurati, il protagonista è un attore, cioè proprio, ma per cui insomma questo mi interessa tantissimo. Poi ovviamente io sono, come tutti immagino, abbastanza certo, fiducioso su Quentin Tarantino. Sì, vero. Diciamo che parliamo di un altro film e poi qui continuano a fare domande. No, prego, andiamo con le domande. Allora, ricevo domande. Che cosa ne pensi dei premi Sylvester? I premi Sylvester sono gli unici veri premi che esistono nel cinema. Non c'è nessun'altra cerimonia di premiazione, se non quella che avviene a Valverde una volta l'anno, che valga la pena di essere seguita. Tra l'altro i Sylvester sono stati appena assegnati, è stata una grandissima cerimonia che nessuno ha potuto vedere, ma insomma. Bene così, andiamo avanti. E dei David? Bah, allora, dei David posso dire che sono, negli ultimi anni sono stati più interessanti che in passato, anche perché un po' il cinema italiano è stato un po' più interessante che in passato, perché il fatto che a un certo punto sono stati mandati in onda da Sky per 2 anni ha un minimo, e non voglio esagerare, un po' svegliato la Rai, la trasmissione della Rai è anche un filo meglio, perché è cambiata amministrazione da 1 anno e mezzo, e vediamo come sarà la cerimonia di quest'anno, che sarà tra poco, però insomma promette di essere un po' meglio del solito, insomma va bene. Beh, pare che il mio collega sia soddisfatto. Se l'ascoltatore sia soddisfatto. Ops. Ma andiamo avanti. Allora, c'è un film che mi ha molto stupito. Si chiama Instant Family. Ed è anche dalla, se vi capita di vedere il trailer, non lo so, dalla qualità dell'immagine, della fotografia, è proprio quelle commediole di rapido consumo che non vogliono dire niente. Ma in realtà non lo è. Mi ha veramente, veramente stupito. Allora, infatti poi ho fatto un po' di indagini e ho scoperto che dietro c'è Sean Anders. Sean Anders è un regista che non ha fatto molti film, ma ne aveva fatto in effetti uno che anch'esso, io avevo detto, ah però pensavo peggio, che è Daddy's Home. Io ve lo consiglio, Daddy, se vi piacciono le commedie americane. È un film con Will Ferrell e Mark Wahlberg. Beh, mi ha fatto veramente ridere, insomma, devo dire. Questo qui, Instant Family, è il classico film di buoni sentimenti. C'è sempre Mark Wahlberg e lei che è bravissima, voglio ricordarmi il nome perché veramente io più la vedo più capisco che è veramente brava, Rose Byrne, che se non sbaglio aveva fatto Terribili vicini. Cattivi vicini, scusate, Cattivi vicini aveva fatto. Insomma, no, è un'attrice che da poco sta cominciando a fare film, serie, ed è abbastanza brava. Insomma, Mark Wahlberg e Rose Byrne a un certo punto stanno insieme e decidono di avere dei figli. Non hanno problemi di concepimento, però per un meccanismo che mi ha fatto molto ridere, a un certo punto si fomentano a vicenda con l'idea di adottare. Vogliono adottare e cominciano a fare questi iter come si fa in America per adottare, e quindi il film racconta molto come funziona il sistema delle adozioni in America, è molto su quello. Lì ci sono dei gruppi, tu vai insieme ad altri genitori, li incontri una volta a settimana anche quando ormai hai adottato per confrontarti, insomma. È molto divertente, questo è quello che mi ha solitamente a me questi film non fanno ridere, mentre invece questo devo dire è molto divertente, ha delle idee sveglie e avrete notato dai nomi che ho detto non ci sono di mezzo dei comici ma degli attori, ed è sempre un ottimo segnale quando una commedia ha degli attori e non dei comici, perché vuol dire che l'umorismo non sarà in loro che lo devono recitare, ma sarà nella sceneggiatura, sarà nella regia, ed è sempre più divertente, non c'è niente da fare, è sempre vero così. Quindi loro che fanno? Si fomentano con questa storia dell'adottare. Andranno a questo grande, cioè come lì tu capisci che a un certo punto loro fanno come una giornata al parco con tutti questi bambini da adottare di varie età, e i diversi genitori girano, vanno, ci giocano, per farsi un'idea di chi potrebbero adottare. E loro fanno la scelta più assurda, cioè adottano tre fratelli tutti insieme, di cui una di 15 anni, uno di mi sembra 12 e un'altra di 8. È una cosa difficilissima, ma è la scelta più difficile di tutte, che porterà i consueti teneri e dolci problemi, ma cioè, da quel punto di vista non è che ci siano stupori di mezzo. Ma devo dire, Sean Anders è veramente bravo, perché tutti quei sentimenti un po' più semplici che sono legati a questi film, la tenerezza, i fratelli che tengono a loro, i genitori che cercano di sviluppare un amore per loro, piano piano nasce, insomma sono cose molto semplici che vediamo continuamente nei film anche meno sofisticati, ma devo dire che qui riescono. Mi ha impressionato perché tutto questo riesce sia alla parte blandamente sentimentale, non vi immaginate chissà cosa, sia alla parte di commedia. È veramente un film riuscito. Beh, è una cosa importante, anche perché è veramente difficile non cadere nel banale su una trama del genere. Assolutamente, lo strano di questo film è che va molto sul banale, però riesce. È come bene. È il banale fatto bene, e alla fine è incredibile, ma ti conquista, no? Ti trovi a dire sì, l'avevo previsto, è una banalità, però cavolo, funziona, sono bravi, lo fanno funzionare, c'è poco da dire. Ripetiamo il titolo di questo film: Instant Family. Instant Family, allora consigliato quindi. Sì. Consigliato. Poi mi fai la graduatoria. Sì. Li metto in fila tutti. Non sarà facile, ci sono tantissimi, però va bene. Va bene. Per questa settimana, l'avevamo già detto, che escono 18 film. 18 sono tanti, Veramente tanti, cavolo. Vabbè. Esce un altro film italiano molto particolare. Cioè, di quelli che stanno in poche sale, però io ve lo dico perché è strano, devo dire. Si chiama Daphne ed è un film su una ragazza down e suo padre, interpretato da una ragazza down effettivamente, e devo dire che io solitamente sono un po' scettico di questi film, perché mi sembra sempre che i buoni propositi siano superiori alla voglia di fare un buon film, e alla fine mi trovo un film pieno di buone intenzioni ma brutto. Invece Daphne, devo dire, cioè lei, l'attrice, che si chiama anche qui, adesso lo vado a vedere perché non ricordo niente, Carolina Raspanti, ha una personalità, l'attrice down, ha una personalità incredibile. Dai, non solo, che il film bello. Poi, allora, la storia del film è che inizia che in questa famiglia, madre, padre e lei, tra l'altro abbastanza anziani i genitori, e lei anche abbastanza grande, solo l'età è difficile stabilirla, ma insomma, siamo una persona che sicuramente ha più di 30 anni. La madre muore all'inizio. Per cui si trovano lei e il padre la prende molto peggio di lei. È il padre quello che l'ha presa male. E lei, che ha un carattere non solo molto dinamico, molto di grande personalità, ma anche a un certo punto un po' stronza. Cioè, proprio, è questo che mi piace poi del film. Non è consolatorio, ecco. Non è per forza. Non è buonista. A un certo punto io lei anche un po' non la sopporto più. Però ammetto che ha una vitalità, una forza che impressionano. Cercheranno di ricucire. Il film, devo dire, è molto interessante. Non è straordinario, non vengo a mentire. Non è straordinario. Non è il film che vi cambia la vita. Però... Non avrei mai detto. Si chiama Daphne. Daphne. Senti, una cosa ti volevo chiedere. Come sta andando invece? Se non sbaglio era Sofia il film di cui mi avevi parlato la scorsa settimana. Vediamo, hai fatto una buona domanda. Sono curiosa perché non l'ho controllato. Voglio andarlo a vedere assolutamente. e sono proprio curiosa di vedere come sta andando. Mi ricordo la trama era della donna marocchina, la famiglia marocchina benestante. Lei si ritrova a quel pranzo quando a un certo punto scopre di essere grassoccia rispetto alla famiglia, alle altri familiari, va in cucina e scopre di essere incinta in un paese stava in cui per partorire proprio. Esatto, in un paese in cui essere incinta fuori dal matrimonio è illegale, si va in galera sia lui che lei. Assolutamente. Questo finale inaspettato che hai paventato mi incuriosisce tanto, vorrei andarlo a vedere. Sono curiosa di vedere come sta andando. Possiamo però dire che è andato veramente male, cioè non è neanche nella top 20. Mamma no, che tristezza. Mia. Amarissima questa cosa. E invece quello più visto di quelli di cui abbiamo parlato la scorsa settimana? Allora, la scorsa settimana è andato Momenti di trascurabile felicità, che era un film che a me non era piaciuto per niente, con Piff e Tony. Okay. Che però insomma è andato bene, non benissimo, ha fatto meno di un milione, non è che sia granché, però è quello che è andato meglio di quelli della settimana scorsa. Accidenti. Va bene. Andiamo avanti. Un viaggio indimenticabile. Madonna, un viaggio indimenticabile. Questo è un film allucinante. No, non finiva più veramente. Allora, questo è un film che io faccio fatica, avrei voluto intervistare il regista, ma non, chiaramente è un regista straniero e non era venuto in Italia, perché veramente volevo capire un sacco di cose, perché... Allora, è un film con Matt Dillon e Nick Nolte, quindi anche con un certo profilo, diciamo. Matt Dillon ne sta facendo di film, eh? Sì, sempre a profili bassi, insomma, non è che faccia insomma, i grandi... Insomma, Lars von Trier. Ah, no, è vero, ha fatto Lars von Trier. No, hai ragione, Rettifico. Rettifico. Un viaggio indimenticabile racconta di Nick Nolte, che è un uomo molto anziano che soffre di Alzheimer, quindi non c'è sta proprio, non c'è sta con la testa, è completamente arrivato. Matt Dillon è il suo figlio di grande successo, e a un certo punto capisce che non può più vivere da solo questo padre, quindi lo va a prendere e lo porta con sé a Londra, dove vive con la moglie e la figlia. La moglie farà molta fatica a stare con questa persona anziana in casa, che fa una serie di casini incredibili, fa pipì nel frigo, fa un casino pazzesco, gli sfonda la macchina, cos'è. Ma in realtà poi ha un gran rapporto con la nipote, tutto molto tenerezza. Immaginatevelo con la luce delle pubblicità degli anni Ottanta, questa luce chiara, rasserenante, che trasforma ogni gesto in dolcezza, ogni momento in sogno. E succede che a un certo punto, siccome farà dei grandi casini, decideranno di metterlo in un ospizio. La figlia sente questa cosa e scappa col nonno verso Venezia. Allora, in questo oceano di melassa, che io veramente non ce la facevo più, ad un certo punto si sconfina in territorio italiano e il film entra come in un tunnel spazio-temporale, e nel momento in cui entrano in Italia entrano negli anni 30, cioè diventa tutto anni 30. Dai. Vestiti anni 30, lo stanno su un treno a vapore, stanno. Cioè diventa un fantasy. Non lo so, non so. È la macchina del tempo, cioè, il nonno diventa giovane. Hanno i telefoni cellulari, no, ma è tutti vestiti anni 30, come se noi in Italia vivessimo negli anni 30. Ma ci sono anche, non lo so, lo spazzino della stazione sembra uno uscito dagli anni 30. Vabbè, è una cosa assurda. Finiranno a Venezia, dove ci saranno teneri inseguimenti e, insomma, vi lascio immaginare come finirà, tutti insieme appassionatamente. Insomma, è una cosa che a me veramente mi ha distrutto. Due ore fischia di questa roba che mi hanno veramente ucciso. In mezzo ci sta il tradimento dei genitori, perché ma il tono del film è serio o c'è... Sì, è serio tenero, è serio di amore, cioè a favore di un guizzo di follia contro il grigiore della vita di lavoro. Cioè il genitore di lei è un grande uomo d'affari, e questo chiaramente è visto malissimo. Ovviamente questo depone malissimo a suo favore il fatto che faccia un sacco di soldi, perché ha perso i veri sentimenti della vita. Ci sarà di mezzo anche un tradimento. Vabbè, insomma. Poi in questi film di nonno, questo è un film nonno-nipote, che è una categoria a sé proprio, il cinema di nonni e nipoti, i cattivi sono sempre i genitori in questi tipi di film, che però poi si ravvederanno nel corso dell'avventura. Insomma, è un'esperienza che io non ce la facevo veramente più. Mi dice un'ascoltatrice, un ascoltatore, che il film Sofia qui a Roma lo stanno dando soltanto al cinema L'Aquila, un solo spettacolo al giorno, in lingua originale, cioè l'hanno condannato. Sì, un po' sì, eh. Allora, in realtà vi posso dire, in lingua originale è molto meglio, però mi rendo conto che non tutti la pensano così, c'è poco da fare. No, molto spesso, a parte gli amatori, però il cinema è visto anche come un momento di grande relax. Ma guarda, cioè, in realtà è rilassante anche la lingua. Cioè, io mi batto molto contro questa cosa che sia faticoso vedere i film in lingua originale perché si legge, perché ci sono le cose. In realtà è una cosa che dopo poco ti entra dentro che e non è un vedi problema. Bene, Gabriele. Mettiti in prima fila. Però, cioè, vabbè. Allora, posso ti rettifico perché sono andato a controllare in questo momento. Sì. Forse magari hanno cambiato le sale, però insomma. Ah no, invece scusami, ho visto male. Avevo visto che stava in due cinema, invece ha ragione lei, sta in uno e l'altro sta a Viterbo. Solo che si chiama Lux, c'è anche a Roma, c'è un Lux, sì, però in realtà sì, questo sì, è Lux sì, di Viterbo. Sì. A Viterbo però c'ha 4 spettacoli, a Roma ce n'è uno solo. Cioè, a Viterbo lo fanno tutto il giorno e probabilmente, anzi sicuramente anche doppiato. Perché secondo te? Perché? Perché allora, provo a azzardare. Dai. Secondo me il pensiero è stato: questo film non lo va a vedere nessuno, lo vanno a vedere solo i veri appassionati, ma a questo punto ai veri appassionati diamoglielo in lingua originale, perché esiste una grande frangia di persone che si infastidisce di dover vedere questi film doppiati. Anche perché poi per questo genere di film il doppiaggio non è mai buono, perché sono fatti, anche la distribuzione che poi è chi doppia non ha queste grandi cifre, per cui insomma poi i doppiatori sono molto abituati a doppiare l'inglese e il francese, quindi a seguire quel tipo di labiale, quel tipo di movenze. Quando vanno a doppiare cinese, giapponese, in questo caso il film è marocchino, altre lingue con altre movenze, sono sempre un po' fasulli perché non c'è quell'aderenza di difficile da raggiungere. Per cui insomma, una cosa l'altra, solitamente per questi film diciamo che sono più della media le persone che lo vedrebbero volentieri in lingua originale. Poi vabbè, non so che dirvi, vabbè. Io ve lo consiglio lo stesso perché è un bel film. No, io voglio assolutamente andarla a vedere, però capisco anche Nuovo che... Aquila alle 20. Alle 20, perfetto. Secondo me c'è anche da sbrigarsi, nel senso che tra poco lo levano. Non credo che arriva il prossimo giovedì, ecco. No, infatti, hai ragione. Allora. Ancora film su film. Adesso ne ho parlato di una serie di film che mi sono piaciuti, invece se ne arrivano un po' che a me non hanno convinto. Però mo ve lo dico. Peterloo è un film di un grande maestro, di Mike Leigh, che secondo me è un cineasta fantastico, veramente. È uno di quelli che fa sempre la cosa che meno ti aspetti, non fa un film normale, è sempre originale. Fu famoso negli anni 90 che fece Segreti e bugie, che era un film che andò molto bene. Insomma, recentemente ne ha fatto un altro che non ha girato molto, che si chiama Another Year, che è stupendo. E vinse Venezia con Il segreto di Vera Drake, che era un film sugli aborti, non il suo migliore, però insomma vinse Venezia, quindi ebbe un po' di credito. Ha fatto questo film che però non mi è piaciuto perché è veramente... la trama. Allora, Peterloo è un fatto molto noto in Inghilterra, da noi no, però da loro è una storia molto molto nota. E si chiama così, che scimmiotta Waterloo, la battaglia in cui perse Napoleone, perché fu una grande disfatta della lotta di classe inglese. Parliamo di io credo 1700 o forse i primi del 1800, quindi comunque più o meno molto in costume, diciamo. Quello che accade è che era un momento di grandi rivendicazioni, diritti sociali, anche tentativi di avere il voto allargato a tutti, il suffragio universale, la possibilità per tutti di votare. E c'è 1815, congresso di Vienna, e c'è questa manifestazione. Era un periodo in cui si facevano molto le manifestazioni di piazza, c'erano gli arringatori, cioè le persone, tutte cose che io ho imparato dal film, non è che le sapessi prima, gli arringatori, cioè le persone che erano chiamate a parlare perché sapevano infiammare le folle e tutto quanto. In questa grande, grande manifestazione, a un certo punto accadde che una serie di aristocratici, che erano quelli che in realtà votavano, gestivano il potere, che erano contrari a queste manifestazioni, la fecero reprimere nel sangue proprio, ma proprio male. Cioè mandarono la cavalleria al gran completo contro donne, bambini, contadini, gente disarmata. E lì c'erano due importanti giornalisti, lì in quella, giornalisti dell'epoca, che riportarono tutta questa cosa, motivo per cui è molto famosa, perché ci fu un reportage molto dettagliato e portò all'esito contrario di quello che voleva chi l'aveva repressa, perché portò a grandi riforme, fu un grande scandalo. Ora, questo evento è raccontato molto nel pre, no, il momento poi della grande strage occupa il finale e anche... diciamo se ne va via in fretta, non è il cuore della questione. Molto il pre è a questa idea di raccontarci tutte queste persone. Non ha un protagonista il film, ne ha tantissimi, è come fosse l'eroe massa del cinema sovietico. È un film molto schierato, per me pure troppo schierato, nel senso che è molto semplice sapere da che parte stare, perché è un evento che, cioè, chi può stare con chi ha massacrato la gente? Nessuno, non è quello il punto. Però il film è talmente smaccatamente contrario, dipinge i cattivi del film in una maniera talmente macchiettistica da cartone animato, che a un certo punto io comincio molto a infastidirmi. Comincio a infastidirmi perché mi rendo conto che tu mi stai volontariamente indirizzando l'opinione, mi stai dicendo devi pensarla come ti dico io. È una cosa che mi infastidisce molto. I contadini, quelli che vanno all'amministrazione, sono di una bontà fuori dalla grazia di Dio, che no, cioè. E a un certo punto comincio a chiederti, ma perché mi stai facendo questo racconto fuori da ogni naturalismo, fuori da ogni possibile realismo, e mi stai imponendo con una forza smodata un parere che poi tranquillamente avrei potuto avere anch'io, perché quando mai mi mettevo dalla parte di quelli che mandano la cavalleria con le spade a trafiggere la gente? Quasi voglia di stare dalla parte dei cattivi. Sì, diceva, cioè, che cavolo, per reazione, per fare un dispetto. Il fine è lo stesso, nel senso che se lui avesse fatto qualcosa di più equilibrato, no? Uh-huh. Avresti avuto i pro e i contro, e alla fine ti viene invece voglia, per provocazione, di andare a cercare i pro e i contro, solo che è un lavoro che probabilmente fai da solo. Forse hai ragione tu. Però come film, te lo dico, come film non vale, cioè è proprio un film che alla fine dici vabbè dai, cioè obiettivamente così no, sono più contento quando mi fai qualcosa che un po' mi sfida, un po' mi fa vedere delle cose che non pensavo, che non credevo, non avevo mai riflettuto su questo. Invece questo non è quello che sto per dire, non è vero, però hai l'idea che lo potevo fare pure io. Non è così, se lo facessi io veniva molto peggio. No, che mo Faster se viene con remake, sì, esatto, qui vincono vince il popolo. Però insomma, capito? E poi tra l'altro io ho un po' l'impressione che questi film parlino spesso a un pubblico di convertiti che non li vada mai a vedere chi invece la pensa in un'altra maniera, e quindi alle volte mi chiedo, ma perché farli in questa maniera? Non convincerai nessuno, perché tutti quelli che lo vedranno la penseranno già così. Ma non lo so, sono molto scettico su questo cinema. Voto 4. Ah, aneddoto. Questo film stava a Venezia e io ho intervistato Mike Lee. Ah. L'avevo intervistato per una trasmissione per cui lavoravo, una trasmissione televisiva di cui facevo l'autore, che andava in onda su Iris. Ah. Allora, un po' io l'ho buttata su questa cosa, cioè della serie, sì, ho capito, però cioè, allora non gli puoi andare a dire hai fatto una macchietta, questi sono ridicoli. No, questo non glielo ovviamente puoi andare a dire. No. Però gli puoi dire, certo, si vede che sei molto schierato, ma non pensi che magari dare una visione anche un po' dell'altra parte poteva... Si è stizzito. Ma veramente l'ha presa male. Dai. L'ha presa veramente male. L'ha presa male a un livello che, guardandomi, mi ha detto: perché chiunque la pensi diversamente, penso che sia un imbecille. Mi guardava fisso. Ah, lì non potevo. Ovviamente stai facendo un'intervista in video, non è che mi posso venire a dire: ma no, ma io la penso come te, ma non è così. Cioè, ovviamente no. Cioè, tieni. Stai facendo un'intervista, fai l'intervista, non è che fai lo scemo. Certo. Insomma, lui l'ha presa talmente male che a un certo punto, finita l'intervista, ha voluto sapere, mi ha chiesto proprio: perché cos'è questa trasmissione? Su che canale va questa trasmissione? Che trasmissione è? E io ho pensato, Dio santo, Iris è del gruppo Mediaset. Io se mo gli dico che sono le reti di Berlusconi, cioè non mi crederà mai che non è vero. Come la pensa il conduttore? Ho fatto, guardi, io credo che la pensi uguale a lei, non è questo il punto. Non sei stato convincente, però. Nemmeno a microfoni chiusi. Ma non mi andava neanche di dire: ma no, ma dai, siamo tutti amici, la pensiamo tutti uguale. Perché mi sembra che veramente non mi devo stendere come un tappetino. Ti ho fatto delle domande. Un po' Bastian contrario. Ma ti ho fatto delle domande, hai risposto, va bene, sei stato polemico, va bene. Ma no, non è che molti devono venire a rendere conto. Alla fine non gliel'ho detto su che canale andava, perché avevo paura che scoprisse che era Mediaset. Guarda, di solito sono io quella polemica, ma oggi su questo argomento. Mi dispiace. Mi hai superata. Lo prenderò come un complimento. Prendila un po' come te pare. Prendila un po' dove sono io. Dove la posso prendere? Ma no! Allora, no. Allora, abbiamo sforato, ma facciamo l'ultimo film. Poi finalmente abbiamo finito. Che non mi è piaciuto. Però questo a me non è piaciuto, ma capisco che potrebbe piacere a molti. Quindi sarò imparziale. Si chiama Il professore e il pazzo e racconta la storia di vera dell'uomo che... iniziò un'impresa incredibile, che è la redazione dell'Oxford Dictionary. Cioè, c'è stato un momento nella storia dell'umanità in cui qualcuno, cioè la casa editrice dell'università di Oxford, ha deciso: adesso noi facciamo un dizionario. Che è una cosa pazzesca, se non ce n'è un altro prima di te. Cioè, vuol dire che tu devi trovare tutte le parole della tua lingua immaginatevi un mondo in cui non esiste un indice di tutte le parole della tua lingua e tu le devi trovare tutte, non è semplice, perché quando hai esaurito quelle di uso comune devi andare a pescare tutte le altre parole che siano, che esistano e siano in circolazione. È una, e non solo, e poi ti devi inventare una scoprire una spiegazione per ognuna, certo, che ha sia l'etimologia, e studiare l'etimologia di ogni singola parola non è semplice, no. Sia, alle volte sai, sembra facile definire una parola, ma quando cominci a dire mi serve una definizione di 5 righe di vita, vai, comincia a diventare complicatissimo. Cinque. Sì, poi sono così i dizionari, no? Mi serve una definizione per arte, amore, queste cose così, è complicatissimo, deve essere una definizione sufficientemente generica per andare bene sempre, poi deve spiegare cosa identifica esattamente quella parola, insomma è veramente un'impresa incredibile. Quindi racconta la storia di questa persona. Chiaramente ci sono voluti 70 anni per fare la prima edizione del dizionario, però lui è quello che l'ha iniziato e ha impostato il metodo, che era un grande linguista. E nel fare questa cosa si fece aiutare da un matto. Un matto che ebbe però, un matto che stava in una casa di cura, internato, comunicavano con le lettere, che però ebbe l'idea geniale, che vengono spesso ai matti, che per definire alcune parole indefinibili, tipo arte, useremo le frasi dei grandi scrittori della nostra lingua. Cioè lui conosceva, era uno che conosceva tutti i libri a memoria e pescava per ognuna di queste parole una massima, un motto, un passaggio di un brano, di un grande romanzo, di un grande romanziere, in cui incidentalmente si trovava una certa definizione. Beh, sembra bellissimo. Incredibile, esatto, quindi la storia è pazzesca. Perché il film non mi piace? Il film non mi piace perché è proprio un film, allora è un film di star power, cioè in cui conta molto di più la potenza di queste star. Uno è Mel Gibson, l'altro è Sean Penn. Wow! E il fatto che loro mettono in mostra se stessi, la propria recitazione. Cioè non c'è in questo film la buona recitazione, c'è la retorica della buona recitazione. Quel momento in cui guardano verso l'infinito, un raggio di luce li colpisce e pronunciano la grande battuta con le musiche sotto. È un film un po' tutto così, di grande enfasi. Totalmente di... impostato proprio. Sì, di retorica della buona recitazione. Tra l'altro poi è un film di pennini intinti nell'inchiostro e carta che viene vergata. Cioè proprio è un film che trae un piacere incredibile dal suo essere ampolloso, d'altri tempi, molto caricato, molto enfatico. I grandi sorrisi quando c'è la soddisfazione con la musica di Archi che sale. Insomma, è proprio un film impostato per la retorica, per dare soddisfazione a chi si aspetta chiaramente questo, chi vuole questo, chi magari è molto, molto amante già di questi attori, perché questo è un film veramente che viene dirottato completamente da Mel Gibson e Sean Penn, che ne fanno un veicolo per se stessi. Ogni scena diventa una scena madre. Poi per carità, questi sono, cioè, io sono il primo ad andare pazzo per Mel Gibson e Sean Penn, sono bravissimi, però mi rendo conto che diventa, non c'è bisogno di tutto questo, è un film intero di su di loro e non sul film. Esatto. Sono mascherati, ci sarà la scena in cui Sean Penn fa il pazzo, quindi potrà dare di matto, ci sarà alla fine redenzione per tutti, redenzione a buon mercato per tutti, offro io. È veramente una, insomma, una cosa che mi ha molto deluso come serietà e schiena dritta. Esatto, capito. Però sono curiosa di vederlo. Poi essendo, proprio lo dico, essendo un film americano, come immaginerete, è un film che scorre, si vede tranquillamente. Certo. Insomma, no, sono quei film che loro non sono però tipi sono che curiosa. Fanno i colpettoni, ecco. Questo è un altro film che mi incuriosisce e prendo nota. Annotiamo. Bene, annotiamo. Io ho annotiamo. Finito, sono anche le 7:15. Sì, ma sei arrivato tardi, Sì, ma ero al cinema. Sono venuto dritto dalla sala cinematografica. E che cosa sei andato a vedere? Shazam. Shazam. Shazam è un film di supereroi che esce tra, mi sembra, 2 settimane. Ah. Ma non posso dire niente perché sono sotto embargo, che finisce dopo domani. Ma è un film o un'animazione? Un film? È un film. È un film che era questo, posso dire, perché ci sono i trailer che racconta di un, il protagonista è questo ragazzino di 14 anni, 15 anni, di 15 anni, con i problemi di un ragazzino di 15 anni che per una serie di questioni che non vi sto a spiegare, boom, diventa un supereroe. Wow. Però la testa è la sua, è sempre quella. Ah. È fatto molto ironico, c'è molto umorismo, però cioè, adesso qui mi fermo. Vabbè. Perché sono sotto embargo. Puoi dire se ti piace, se ti è piaciuto o no. No, è proprio quello, l'opinione. Okay. Sotto embargo. Infatti vi ho raccontato quello che si vede nel trailer. Va bene. Capito, lo dico alla Warner, ho detto solo quello che c'era nel trailer. Ecco, senti Gabriele, ci vediamo la prossima settimana? Ci vediamo la prossima settimana. Ma anche se non ci fosse Faster, tu vieni lo stesso? Non lo so, se lo so prima forse no. No, vengo lo stesso. Ti vengo a cercare a casa. Ti vengo a corcare. Ti vengo a corcare. Ti boicotto. Che parole. Se non vuoi venire qui a fare cellulite e celluloide con me, va che bene? Che parole. Pensate quanto è cattivo. Va bene, Gabriele, grazie mille. Prego. E niente, ci vediamo la prossima settimana. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Ciao.